Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Lacche in gola, mal di gola, bruciore di gola che non passa mai. Colpa delle polveri sottili o colpa di un colpo d'aria. Provo propoli sciroppo, propoli pasticche, provo propoli spray. Ma nemmeno la potenza delle api può far nulla, nulla, nulla di nulla. Gargaroz, giù nel Gargaroz. Gargaroz, o meglio la gola, e lei la protagonista della nostra puntata. Parliamo di gola nella buona e nella cattiva sorte. Gola come piacere, tentazione, gola come vizio, come peccato. Assieme alla lussuria, la gola è il vizio più confessabile. Nessuno si vanterà pubblicamente di essere invidioso, avaro, tracotante, iracondo, negligente. Ma nessuno si vergognerà di dire che va matto per le profiterol. Da Quando siamo a tavola, di Cesare Marchi. E a proposito di gola, un sondaggio condotto dal sito melarossa.it e realizzato con la supervisione scientifica della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione ha stilato i peccati di gola più frequenti e taciuti dagli italiani alle prese con una dieta. Quindi se siete a dieta, confessate i vostri, ma raccontateci le vostre passioni segrete anche se non state lottando con la bilancia. 800 24 00 24. Se la vostra gola non pecca ma si lamenta, si arrossa, è prude, si vela, datele una buona occasione di benessere chiamandoci per avere o dare consigli per tornare a farla stare bene. E allora iniziamo subito a dare un sollievo alle gole dolenti. In questo momento l'influenza, lo sappiamo bene, picchia duro. Allora prendiamo per la gola, la nostra gola, con la dolcezza. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMS di Veneto Medica di Altavilla Vicentina. Buongiorno, bentornato. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ha sentito che anche Elio, le storie tese nella canzone Gargaroz, faceva riferimento alla propoli e lui diceva neanche le api ce la fanno a farle stare bene. Forse ce la fa il nostro dottor Temporin con un rimedio per le gole arrossate, un rimedio naturalmente che prendiamo dal nostro armadietto della natura. Dottor Temporin? Allora, sicuramente la natura ci offre tantissimi rimedi per i nostri mal di gola e per questi malanni stagionali. Un rimedio alla portata di tutti, lo possiamo trovare nel nostro orticello ma anche nel nostro davanzale, può essere la salvia officinalis. La salvia, ne prendiamo una manciatina, ne facciamo un infuso con dell'acqua bollente, poi utilizziamo un cucchiaino di miele e facciamo degli ottimi gargarismi. È un ottimo decongestionante per le nostre gole infiammate. Quindi con la salvia, quella che aggiungiamo al burro fuso quando dobbiamo condire magari i ravioli con ripieno di verdure, non solamente, esatto, per dare sapore al burro ma anche per dare sollievo alla nostra gola. È vero che bisogna, quando usiamo le foglie, non spezzettarle con la, non tagliuzzarle col coltello ma spezzettarle a mano? Esattamente, e comunque possono essere usate anche le piccole foglioline intere il cui principio attivo è molto concentrato. Cosa ci propone di altro, dottor Temporin? Se ovviamente la nostra gola è molto molto arrossata e ci fa anche molto molto male, aprendo il nostro frigorifero possiamo utilizzare un altro rimedio naturale, sempre a portata di mano, che può essere la ricotta. Sì, intendo proprio il formaggio di ricotta, le quale applicato nella parte esterna ovviamente della gola come, sì, impacco per qualche ora, ha un ottimo effetto decongestionante e anche analgesico. Ma mi spieghi bene, la mettiamo tra due telini? Sì, allora prima di tutto la dobbiamo portare a temperatura ambiente, sì, quindi perché non deve essere fredda. Fredda. Mm. Poi viene messa tra un telino e una garzetta e viene applicata nella gola, magari poi con una sciarpa di lana o ancora meglio una sciarpa di seta, e la lasciamo lì per qualche ora. E si sfiamma e abbiamo anche la sensazione di avere la gola meno gonfia? Sì, va molto bene anche per quelle forme gola molto infiammata, anche con le tonsille, anche per i bambini quando hanno le tonsille gonfie molto infiammate, è sicuramente un valido ausilio. Dottor Temporin, ma oggi parleremo anche di nodo in gola, la malinconia, un po' di tristezza. Questo tempo non aiuta perché qua è grigissimo e piove. Dottor Temporin. Quindi per il nodo alla gola invece? Per il nodo alla gola consiglierei un rimedio omeopatico che è giusto giusto per questo tipo di problema e si chiama Ignazia Mara, la quale va assunta in granuli. Vi sono varie diluizioni e qui consiglio sempre di parlare con il proprio medico omeopata e può essere proprio utile per questi sensi di oppressione a livello della gola quando ovviamente il problema è il nostro umore che non va. Quindi Ignazia Mara per rendere la vita meno amara. Esattamente. Le piace? Dottor Temporin, voglio chiederle una cosa per Francesco da Roma che ci ha scritto al 349-238-6666. Sto usando l'olio essenziale di pino mugo. Vorrei sapere se va bene anche per mio figlio di 3 anni. Quindi possiamo darlo anche ai bambini? Allora, gli oli essenziali sono un ottimo ausilio per anche e soprattutto i problemi infettivi in quanto hanno effetti disinfettanti. Hanno però un piccolo problemino, sono facilmente irritabili e allergizzanti. Quindi, prima di tutto, un consiglio dal proprio pediatra omeopata. Grazie, dottor Temporin. Buona giornata. Un saluto a tutti. Che c'è? Gola. Gola, vedere? Come rossa, fumi? Sì, è meglio. Già litigo dalla mattina alla sera con mio marito che fuma tanto. Ecco, è questo. Vuoi guarire? Sì. Non litiga più con tuo marito. Che devo fare? Compri il pacchetto di sigarette. E li sciacqui? Falli fa lui. Ciao. Il professor Tucci. Ah, il professore violino, il violinista. Come va, professore? La lirica riprende? Ah, la lirica sì, sono io che non mi riprendo. Asma, professore. Sentire? Tossisci? Alt! Tossisci? Alt! Respira forte. Alt! Non respirare. Eccolo là, le lezioni le fai? Sì, un giorno sì, un giorno no. Quest'estate mare e sole, terapia solare. E per quel pinticarello in gola? Dai da barba. La barba? Cosa c'entra la barba? Grande, grande, qua in studio con me ho il dottor Andrea Franzetti, primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. A volte basta un mal di gola a complicare tutto, si fa fatica a deglutire, a respirare, anche quello che mangiamo sembra avere un saporino diverso, insomma tutto questo perché la gola è un microcosmo in cui succedono un sacco di cose. Se fosse una persona diremmo è un vero multitasking. Sì, sì, la gola è come un grande incrocio di una grande città perché ci arriva l'aria dal naso che poi va giù nelle vie respiratorie, ci passa il cibo che dalla bocca passa dietro, si sente il sapore, poi va giù nell'esofago, nelle vie digestive. Poi ci sono i viaggiatori abusivi che sono i vari virus, batteri che cercano di intrufolarsi, ma ci abbiamo i vigili che sono le tonsille che cercano di fermarli. Poi ci abbiamo anche quelli che vanno in retromarcia nei sensi unici che tornano indietro, che è il reflusso gastroesofageo che mi torna indietro e quindi fa uno scompiglio. Pazzesco, a livello di questa mi piace gola. Questa e, paragone. E tutto è coordinato da dei movimenti muscolari che se non sono sincroni e perfetti fanno venire varie situazioni anche di contratture, disturbi, fastidi che possono poi nel tempo generare anche delle ansie, delle situazioni psicologiche, delle somatizzazioni di altre situazioni proprio nella gola. Tra l'altro la gola è una parte in cui si accaniscono molte nostre tic, le persone che ad esempio si schiariscono, stavo pensando a quelle che tirano su con il naso, quelle che si schiariscono la voce, insomma lei l'ha paragonata ad un incrocio, ma anche per i tic è molto importante. Certo, perché la somatizzazione nella gola è una delle cose più diffuse, perché uno percepisce un disturbo e cerca di risolverlo con un movimento muscolare o con una tossettina o tirando su col naso e quindi toglie questo disturbo facendone un altro, un'altra sensazione e questo inizia a riprodurlo in continuazione in situazioni in cui magari ha situazioni di stress, di ansia, di stanchezza eccetera, è come una specie di movimento di esercizio per distendersi che però non va sicuramente bene per la gola. A volte invece dobbiamo proprio schiarirci la voce, anzi dare un bel colpo di tosse perché certo. Qualche cosa ci è andato per traverso. Certo, e quando va per traverso dove va? Dove va? Potrebbe essere il quizzettone. Dai, dove va? È una specie di... non sappiamo già perché c'è quella cosa che ci va di traverso. Sì, e già perché... quello è un mistero, no? Perché quante volte deglutiamo. Certo. E a volte anche deglutendo la saliva ti va di traverso la saliva. E uno dice, come mai? No, non capi... questa volta proprio sì, quindi è già un mistero. Questo per dirvi che al nostro quizzettone, che il dottor Franzetti vi racconterà tra poco, abbiniamo Mistero 24, i misteri da svelare di Giallo 24, il mistero in onda, 15 racconti scritti dagli ascoltatori di Radio 24, pensate come siete bravi, e messi nero su bianco da Giallo Mondadori. Vai col quizzettone allora. Quindi la domanda è: quando va di traverso dove va? Diamo tre spiegazioni. Dai. Prima risposta: va in esofago, cioè va dove il cibo, la saliva dovrebbe andare, spinta posteriormente dalla base della lingua e dell'epiglottide, però l'esofago dà degli spasmi, delle contrazioni, per cui questa cosa torna indietro e crea questa, diciamo, fastidio, stimolo, per cui uno inizia a tossire. Risposta numero due. Va nella laringe, cioè va dove non dovrebbe andare, cioè l'epiglottide della base della lingua non spingono la saliva, per esempio, piuttosto che il cibo in esofago, e quindi si infila nella laringe dove ci sono le corde vocali e quindi stimola la tosse. Risposta numero 3. Va nella trachea, cioè va nelle vie respiratorie e quindi va dove non dovrebbe andare, crea uno stimolo e compare la tosse. Quindi uno, esofago, due, laringe, tre, trachea. 800 24 00 24, potete naturalmente chiamarci sin d'ora, come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Ma a proposito di gola, a volte basta la parola per localizzare l'origine del problema, dottor Franzetti. Cioè, sentendo una parola, una persona parlare, lei può dire quale parte della gola è interessata. Certo, perché ci possono essere del tipi di voci alterate da situazioni della parte alta della voce, come delle, chiamiamo, rinolalie, per cui il naso chiuso, il naso aperto. Ci possono essere le situazioni condizionate dalle situazioni della laringe, quindi delle corde vocali. Ci possono essere delle voci alterate da degli ingombri a livello della bocca e della gola, come delle tonsille molto gonfie, molto grosse. Quindi già ci orienta la voce che si modifica di una persona. E a proposito di voce, a metterla a KO non è magari solo la laringite oppure un'infreddatura, ma anche il superlavoro. E in linea con noi abbiamo il nostro professor Franco Fussi. Buongiorno, professore. Buongiorno. Foniatra. Buongiorno, io dico ormai nostro, ma foniatra e otorinolaringoiatra, responsabile del centro foniatrico USL di Ravenna. Parlare stanca, professor Fussi, quali sono i segnali di un sovraffaticamento della voce? Ma nella voce affaticata ci sono due ordini di sintomi, che sono soggettivi e anche oggettivi. Quelli soggettivi sono quelli che sente il fonante, appunto, stanco, che fa fatica a parlare, sono le classiche parestesie laringee, cioè quella sensazione di calore, di secchezza delle fauci, di bruciore, di fatica generale nelle necessità fonatorie, e quindi la sensazione di dover spingere sulla nostra muscolatura laringea per poter produrre un suono accettabile o consueto. E poi dall'altro lato invece ci sono dei sintomi oggettivi in cui abbiamo una qualità della voce che sentiamo alterata, sia noi che sia gli ascoltatori che appunto ascoltano la nostra voce disfonica, e la voce disfonica può essere una voce che ha delle caratteristiche di aperiodicità, di movimento vibratorio della corda, quindi la voce che si fa appunto rauca, e questo di solito quando c'è una patologia, oppure può essere una voce più acuta oppure più grave se la massa delle corde vocali si atrofizza o si ingrandisce, o soprattutto se la nostra laringe lavora in uno stato di elevazione o in uno stato di abbassamento. A volte uno stato di elevazione è proprio legato alla fatica, io spingo con la mia muscolatura del collo, la mia laringe si alza e tendenzialmente la mia voce diventa appunto più acuta e più sottile. Proprio così, come ci fa sentire lei. Professore, come i nostri muscoli, anche le nostre corde vocali hanno bisogno di fare un po' di riscaldamento. Sì, il riscaldamento, soprattutto è una... se dobbiamo parlare a lungo, cosa dobbiamo fare? Esatto. Beh, consiste in una serie di procedure che cercano di migliorare lo stato di viscosità ed elasticità della corda prima di una prestazione vocale prolungata, quindi soprattutto lo fanno i professionisti della voce, che possono essere non soltanto i cantanti ma anche gli attori o gli insegnanti o i conferenzieri. Si tratta di appunto fare dello stretching della muscolatura prima di tutto il corpo, poi anche delle nostre corde vocali, attraverso una serie di vocalizzi, di manovre contro resistenza, E anche mantenere una buona idratazione della corda vocale aiuta a far lavorare le corde vocali meglio, perché se il film idrolipidico che riveste le nostre corde vocali in buono stato, quindi siamo ben idratati, anche l'onda mucosa che la corda vocale deve fare per produrre l'onda sonora ha una maggiore libertà e ha bisogno di minore impegno vocale, di minore impegno muscolare e quindi di minore spinta, di minor lavoro, allora riusciamo a parlare più a lungo senza sentirsi affaticati. E appunto queste procedure di riscaldamento servono proprio per migliorare lo stato idratativo e l'elasticità della corda prima di un compito, proprio come per un atleta che fa lo stretching della sua muscolatura prima di una gara. E quindi, insomma, bisogna allenare anche la nostra voce e, come ha sottolineato il professor Fussi, sciogliere anche tutto il nostro corpo, vero professore? Esatto, sì, c'è tutta una serie di esercizi che precedono quelli vocali, che sono appunto di stretching della muscolatura del collo, di riallineamento posturale e proprio appunto di detensione della muscolatura. E aggiungiamo, ricordiamoci, una buona idratazione, anche in inverno. Assolutamente. Professor Fussi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Dottor Franzetti, gola oggi tra gioia e dolori, parleremo anche dei piaceri di gola, ci sono anche delle attenzioni che fanno piacere alla nostra gola, e non penso solamente al cioccolato, ai peccati di gola, ma proprio delle attenzioni che ci permettono di mantenere la nostra gola sana. Certo, perché la gola è come se andasse un po' coccolata ogni tanto, nel senso che già l'aspetto dell'idratazione, di un'idratazione adeguata, che diceva il professor Fussi prima, è forse uno degli aspetti principali, perché uno dei fastidi più grossi che si possono avere nella gola è proprio la secchezza. Non solo come fastidio, perché poi può generare anche delle situazioni patologiche, però già come fastidio è una sensazione importante. Ma oltre a questo è anche il fatto, per esempio, di non irritarla con quelle cose che magari abbiamo chiamato prima tic, ma soprattutto anche di non irritarla con sostanze come il fumo, lo smog o anche altri fattori ambientali. Per esempio, immagino delle persone allergiche a determinati ambienti, a determinate situazioni, perché l'irritazione continua della gola può portare un malessere, un disagio continuo che nel tempo poi può sviluppare anche delle situazioni di gonfiore, di patologia, di irritazione anche più gravi. Per cui, per esempio, tutta l'attenzione al fatto di non sottoporre le mucose della gola al fumo dal punto di vista dell'ambiente, ma per esempio anche l'assunzione di non molte quantità di alcol, di alcolici, certo, che si ripercuotono sulla situazione delle mucose. Attenzione quando mangiamo, non ingerire bevande troppo calde. Poi c'è appunto La temperatura degli alimenti, è logico che uno non si brucia, però tante volte mangiamo e diciamo è scotta, ecco, l'eccesso di caldo e il troppo freddo, che spesso sembrano darci un beneficio perché fa tanto caldo, no? Sì. Oppure perché ci piace la cosa bollente, sicuramente per la mucosa della gola. E in questo caso, a me ha colpito tantissimo, perché sono uscito recentemente con dei colleghi cinesi, sì, che mi hanno spiegato che loro pasteggiano con acqua tiepida. E questa cosa qua mi ha colpito e gli ho chiesto come mai. E mi ha detto perché l'acqua tiepida dà una sensazione di benessere alla gola. Acqua tiepida, hai sentito? Magari proviamo oggi. Io non l'ho ancora provato, però si può provare. Un'acquetta tiepida. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. Dottor Franzetti, ma a volte anche altro che zucchero, la gola sembra chiusa, si fa proprio fatica a deglutire, non passa neppure l'aria. Un disturbo che può prestarsi a una doppia interpretazione, ansia o faringite? Sì, diciamo che il sintomo ha un nome che si chiama disfagia, quando si fa fatica a mandare giù. con una sensazione di stringimento o di chiusura. Allora, intanto bisogna capire se realmente la roba, diciamo il cibo o quello che chiamiamo il bolo, non passa, se c'è un problema di coordinamento muscolare della bocca verso la zona esofagea, oppure se è nell'esofago che si ferma, oppure se torna indietro. Ci sono dei casi in cui si chiama un rigurgito di parti di cibo indietro. E quindi sono tre situazioni diverse. A volte si va a studiare questo disturbo subito facendo la cosiddetta gastroscopia, ma la gastroscopia non ci permette di studiare la parte alta dell'esofago, cioè proprio i primi 10 centimetri, né tantomeno quello che succede nel coordinamento motorio. Esiste, per studiare questo disturbo, un esame che è quasi più semplice, meno invasivo della gastroscopia, che è un esame radiologico, sì. È una normale radiografia, per cui viene messa in bocca una pappetta che si chiama bario, oppure c'è un'altra sostanza che è il gastrografin, che sono delle pappette che uno deglutisce, e mentre deglutisce viene fatta una radiografia, che è come fare una lastra del torace, certo. Quindi assolutamente non invasiva e indolore, e lì si vede proprio il movimento che fa durante la deglutizione. In questo modo si studia proprio la funzione deglutitoria. In questo modo si riesce anche a capire, primo, se c'è un problema di tipo funzionale. Sì. Se c'è un problema funzionale, non c'è nulla di organico, allora dobbiamo porci il problema se la questione è una somatizzazione di uno stato ansioso, che spesso succede, oppure se è veramente un problema funzionale legato a un disturbo che può essere legato a un affaticamento muscolare di natura più neurologica, che succede per esempio spesso in età avanzata, quando il coordinamento muscolare viene meno. In questi casi spesso può essere di aiuto imparare degli esercizi di riabilitazione da delle logopediste. Sì, perché si rimette un po' la muscolatura in grado di funzionare ancora bene. Quindi in modo... si riallena la muscolatura. Sì. Poi l'altra cosa da notare quando si fa fatica a mandare giù è se è per tutto, se è per i liquidi o se è per i solidi. Perché questa notizia è una notizia clinica molto importante. Molto importante. Perché allora ricordate, quando fate fatica a mandare giù, e poi chiediamoci anche se mastichiamo in modo adeguato. Infatti, perché ci sono delle persone che dicono non mi scende niente, però non masticano, praticamente per la fretta, per la cattiva abitudine buttano giù tutto, aria, cibo, e diventa una bella mappazza. 800 24 00 24, come deglutite, dottor Franzetti? No, lo stesso fenomeno è importante sia per i bambini quando hanno la cosiddetta deglutizione atipica, che è legata spesso a una chiusura dentaria, oppure all'anziano che spesso non ha i denti per masticare, quindi alla dentiera ha dei problemi proprio a confezionare il bolo. Abbiamo in linea con noi Vladimiro, che ci chiama da Bergamo, 800 24 00 24, benvenuto e buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Volevo dire una cosa, io non fumo e non bevo, non bevo alcolici, eccetera, però io ho una laringite cronica. Quali potrebbero essere i rimedi? A me piace cantare, per esempio, in casa, così ho la chitarra, mi piace dilettarmi nel canto, però la mattina, appena che mi alzo fino a mezzogiorno, c'è sempre sta un po' stare raucedine, eccetera. Quali potrebbero essere i rimedi per migliorare? Perché uno dice, ho cantato a squarciagola ieri sera, ha cantato anche ieri? No, canto poco, è una cosa mia famiglia, che faccio in famiglia così. Allora, però mi accorgo che ho delle difficoltà, specialmente al mattino, ecco. Dottor Franzetti, ha sentito anche la voce del nostro Vladimiro. Fate sentire la vostra voce al dottor Franzetti. Che suggerimenti può dargli? Ma allora, io direi che sicuramente le due cose che abbiamo già sottolineato col professor Fussi sono importanti, cioè il riscaldamento delle corde vocali. Infatti il fatto che il nostro radioascoltatore alla sera non abbia più questo disturbo significa che non è tanto quello che noi chiamiamo un surmenage, cioè uno stressamento delle corde vocali che gli impedisce la cosa, ma un poco allenamento. Quindi probabilmente non imposta neanche benissimo la voce, quindi va allenata prima. La seconda cosa, l'umidificazione, e se parla di laringite cronica è perché c'è anche una situazione in qualche modo infiammatoria persistente, nonostante il fatto che giustamente lui dice io non fumo, non sono esposto a fattori, eccetera. Perché? Perché ci sono ambienti, professioni, lavori che possono nel tempo o predisposizioni generare questa situazione. Una delle cose che può aiutare in questi casi sono quelle che noi chiamiamo le cosiddette cure termali. Sì. Che in parte possono essere fatte che sono alle terme, anche molto piacevoli. Sì, sono piacevoli, magari ci sono alcune più piacevoli, quelle magari fatte per la gola, le alte vie, tipo le inalazioni, le docce, le irrigazioni, eccetera, sono un po' meno piacevoli che non fare, diciamo, i fanghi piuttosto che i bagni, però completano un certo tipo di trattamento che può aiutare molto tutto l'organismo e quindi anche la gola e la zona, diciamo, si può fare alle terme, ma possiamo anche utilizzare le acque termali a casa nostra, acquistandole in farmacia. E queste fatte ciclicamente, senza esagerare, durante l'anno, portano nel tempo un beneficio importante sulle laringiti. Sono delle acque che più amiche della nostra gola? Ma diciamo che se non ci sono fattori allergici o fattori di tipo asmatico, quelle sulfure sono delle acque, diciamo, ottime. Se no, si possono usare anche delle acque salso bromo iodiche. A volte si pensa che sia il freddo a mettere KO la gola, ma attenzione, si rischia la gola anche in ambienti caldi e asciutti, perché i nostri meccanismi di difesa vengono, diciamo così, messi un po' in difficoltà. In linea con noi abbiamo il dottor Mauro Mocci. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Medico dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Sì. Dottor Mocci, ambienti molto caldi e asciutti ci mettono un po' in difficoltà perché le nostre mucose si seccano. Esatto, e le mucose che si seccano sono ovviamente maggiormente esposte a sostanze irritanti, ad infiammazioni, ad infezioni, e soprattutto se poi le sostanze irritanti sono degli inquinanti. Quindi bisogna intanto cercare di portare le temperature dell'ambiente in modo giusto, corretto, quindi non bisogna esagerare. Io alcune volte dico meglio un po' di aria fredda pulita piuttosto che aria calda ma sporca. Quindi la casa, l'inquinamento indoor all'interno della casa alcune volte è abbastanza rilevante, quindi bisogna arieggiare e portare una temperatura non eccessivamente calda, perché questa secchezza ovviamente espone a, con l'aria calda noi perdiamo troppa acqua, sì, e quindi poi siamo esposti a tutto quello che può succedere con, in assenza di saliva. Come è stato già detto, l'idratazione quindi è importantissima. Che cosa possiamo fare per idratare? Intanto quello, un consiglio sembra banale, ma respirare con il naso. Sembra una cosa, io più volte mi trovo i pazienti che continuano a respirare con la bocca, quindi lavaggi del naso, cercare di tenere il naso il più possibile disostruito e fare lavaggi con la soluzione fisiologica che porta via quelle sostanze, quelle schifezuole, insomma, quelle polveri sottili che noi conosciamo, che diceva anche Rio Lestoretese all'inizio, quelle polveri sottili che cioè poi ci provocano questa particola. Quindi facendo dei lavaggi con la soluzione fisiologica riusciamo a portare via questi inquinanti. Arieggiamo, filtri puliti. Attenzione, i filtri vanno puliti, perché noi adesso ormai è l'abitudine di riscaldare con le pompe di calore, quindi con i condizionatori, ma dentro questi filtri dei condizionatori, se non viene fatta una buona pulizia, noi ci riportiamo in casa, nell'ambiente, con i continui passaggi di tutto, perché lì si annidano spore, batteri, acari, il particolato, cioè le polveri sottili. Quindi va fatto un attento lavaggio di questi filtri, ma non con sostanze chimiche. La raccomandazione è non farlo con sostanze chimiche, ma una semplice acqua calda. Lavare i filtri costantemente, di modo che l'aria che passa lì viene filtrata. E poi, dottor Mocci, ricordiamo l'acqua nelle vaschette dei termosifoni. Esatto, l'acqua nelle vaschette è una cosa... E cambiarla ogni tanto, perché ci sono delle... Attenzione però a non esagerare nemmeno troppo con l'umidificazione, perché io vedo alcune volte, soprattutto dove ci sono i bambini, si tende ad umidificare troppo. Adesso ci sono questi umidificatori, quindi non deumidificare, non eccedere nella deumidificazione. Chi è il deumidificatore non deve esagerare, perché scendere sotto un 40% di umidità poi dà problemi, ma nemmeno umidificare troppo, perché altrimenti si creano muffe, Quindi ci vuole un giusto equilibrio tra le due cose, ma anche lì cambiare i filtri, sia dell'umidificatore che del deumidificatore, perché lì dentro si annidano le peggiori cose. Allora, grazie dottor Mocci, grazie a voi per essere stato con noi. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Anche i filtri in macchina bisogna cambiarli, dottor Franzetti. Certo, assolutamente sì. Ecco, bisogna pulirli. Io non l'ho mai pulito. 800 24 00 24, chissà cosa respiro, ma adesso vado a piedi, strade, e poi di nuovo insieme. Essere e benessere. Dottor Franzetti, allora riprendiamo a parlare della nostra gola, che in questa stagione in modo particolare viene un po' presa d'assalto, perché ci sono tante persone che complice l'influenza hanno mal di gola, arrossamenti, perdita di voce. Certo. Abbiamo cercato di dare tanti consigli per farla tornare a stare bene, per mantenerla anche sana, cominciando proprio dallo stile di vita. Certo, assolutamente, perché l'ambiente e i fattori ambientali, sicuramente anche batterici o virali, non aiutano, e quindi noi dobbiamo cercare di creare una situazione di benessere coccolando proprio questa gola, cercando di difenderla. Abbiamo la domanda che vi abbiamo fatto oggi, il nostro quizzettone: quando va di traverso, dove va? E le possibilità erano tre: esofago, laringe, trachea. 800 24 00 24, continuate a scriverci. Intanto la gola sono anche i peccati, le tentazioni. Voi cittadini mi chiamaste ciacco, per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. E io, anima triste, non son sola, che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa. E più non fe parola. Canto sesto dell'inferno. Parliamo di gola durante una dieta. A proposito di gola, è facile cadere in tentazione, cedere a momenti di debolezza. Si cede quasi di nascosto da sé, con un leggero senso di colpa. Che cosa facciamo? Cediamo o non cediamo? Lo chiediamo alla dottoressa Sara Farnetti, medico internista e nutrizionista. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa Farnetti, da un sondaggio di melarossa.it emerge che quando si ha dieta viene principalmente voglia di cioccolato, dolci in genere, ma anche pane, pasta e patatine. Cediamo, ma facciamolo puntando sulla qualità. E questo è vero il messaggio che vogliamo dare oggi? Assolutamente, facciamolo in modo furbo ed intelligente. Non è detto che mangiare cioccolato o mangiare delle patatine fritte sia così peccaminoso, anzi, possiamo concedercelo. Ma qual è il cioccolato? Come fare queste patatine fritte? Per esempio, il cioccolato deve essere amaro, extrafondente, non amaro perché non è buono, semplicemente perché il tenore, la concentrazione di zuccheri deve essere adeguata, quindi almeno un 80% e di ottima qualità. Certo, possiamo arrivare anche a concedercene un terzo di stecca durante il giorno, perché no? Se poi mangiare cioccolato significa invece magari evitare dei cibi molto più zuccherini che ci farebbero male. E così per le patatine fritte, come farle? Sì, certo, quelle fatte in casa con l'olio extravergine, preparate da noi, possiamo mangiarne sicuramente, e poi metterci la giusta quantitativo di sale, che invece non possiamo regolare se mangiamo quelle nel troppo sacchetto industriali. Certo. Esatto. E pasta e pane? Beh sì, mangiamoli sempre facendo attenzione a come li abbiniamo. La pasta può essere mangiata, certo non mettiamola insieme a delle patate, piuttosto poi a della frutta. Un bel piatto di pasta, che sono i nostri 80 grammi condita in modo gustoso, vicino a delle verdure con fibre che possono essere crude e cotte, e non invece al pane, appunto, o piuttosto a della frutta troppo zuccherina. Quindi intelligenza nell'associare gli alimenti e ne scegliere la qualità. Grazie dottoressa Farnetti, soprattutto perché al lunedì di solito si pensa alla dieta al lunedì, poi si rimanda a quello dopo, ma iniziare con queste allegre sostituzioni aiuta. Grazie alla dottoressa Farnetti per essere Buongiorno. Stata con noi. Buongiorno a lei. Allora, dottor Franzetti, mi dicono che Francesco da Milano è pronto per il nostro quizzettone. Francesco, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Allora, dove va quando va di traverso? Ma io, se ricordo bene, io sono un camionista, se sbaglio perdonatemi, ma credo proprio che vada nella laringe, perché quando noi deglutiamo l'epiglottide, quando passa il bolo, si chiude per non far passare l'aria. Mettiamo il caso che parliamo mentre mangiamo, corriamo il rischio che ci vada di traverso, perché un po' di cibo entra nella laringe. Perfetto, perfetto. Bravo! Allora, lei lo sa che allora, le arriva il mistero, eh? Il mistero della, il giallo Mondadori, il mistero giallo 24, il mistero in onda, i 15 racconti scritti dagli ascoltatori di Radio 24 e messi nero su bianco da giallo Mondadori. Grazie Francesco, è stato bravissimo. Molti mi hanno scritto esofago, anche al 349-238-6666. E molte trachea. Perché era giusta proprio la laringe e non la trachea, ad esempio? Perché prima viene la laringe e poi dopo viene la trachea, però la trachea il è già molto giù. Prima va in laringe e la tosse scatenata dal contatto con le corde vocali. Margherita, buongiorno. Buongiorno. Guardi, io da un po' d'anni ho un disturbo alla gola. Che insomma, sono 4-5 anni, ho fatto l'ecografia per la tiroide, tutto a posto, analisi, tutto a posto. Però io nella gola sembra come se ho un po' di muco che non riesce a scendere. L'altro giorno sono andata dall'otorino e mi ha detto di fare la laringoscopia al test tracheo. Però sono un po' preoccupata perché anche con questo nome non si capisce. Allora le spiego che cos'è questo esame. Sì. Allora l'esame è un esame che viene fatto con una fibra ottica di circa 2 mm passando attraverso una delle narici del naso per non stimolare il riflesso del vomito, perché se si passa dalla voce può succedere questo, e se si scende non è doloroso, è fastidioso, in base sicuramente anche alla manualità dell'operatore, però non eccessivamente fastidioso, si sente passare e si va a guardare tutta la parte posteriore della gola fino alle corde vocali e ai primi anelli tracheali. Un consiglio quando prenotate questo esame è chiedete se viene fornita una documentazione fotografica dell'esame. Questo perché? Perché se non viene fornita una documentazione fotografica dell'esame, o fa fede quello che scrive il medico sul referto, o se no qualsiasi altro specialista ve la rifà una seconda volta. Ecco, quindi per evitare di rifarla e anche di spendere soldi, fare spendere soldi al nostro servizio sanitario, fatevi fare la foto. Perché oggettivamente uno vede di più. Abbiamo tempo, ma quasi no. Silvia, velocissima. Buongiorno. Buongiorno, perché abbiamo Carmelo Lauricella che ci taglia. Perfetto. Vada, veloce. Una cosa velocissima. Mi succede negli ultimi mesi che mi sveglio di notte con la sensazione di soffocare. Come gola se o naso? Gola o naso? Gola allora, o naso? A quel punto... No, Silvia, gola o naso? Dal naso non riesco dal più a naso. Respirare. Allora è un problema di turbinati. Turbinati, Silvia, i turbinati sono il suo problema. Ma ne parleremo in una trasmissione sul naso. Grazie a Silvia che è stata rapidissima. Dottor Franzetti, grazie davvero. Grazie a voi che ci avete seguito. A Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica. Laura Vanossi in redazione, non sforo neanche. Vi do appuntamento a domani. Grazie mille. Seguiteci su Facebook e su Twitter. Essere e benessere.